Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Voilà, io sono arrivata, sono le 11.08. Buongiorno da Nicoletta. Liscia, morbida, luminosa, dorata o segnata, vizzita, tesa, spenta. Quando, cari amici, noi parliamo di pelle, tendiamo a rimanere in superficie, a limitarci un po' all'apparenza. D'altra parte questo è un po' lo scotto che si paga essere sempre in primo piano. Allora oggi vi invito ad andare oltre, a vedere altro, a considerare la pelle proprio come un organo da proteggere, coccolare, ascoltare, preservare con cura, direi proprio con la stessa attenzione che siamo soliti dedicare al nostro cuore e al nostro cervello. Salviamoci la pelle, che bello brutta è quella lì, prendiamola unica, salviamoci la pelle. La sfida di oggi, allora, mantenere o recuperare quella sensazione di equilibrio e di armonia che ci fa proprio dire sto bene nella mia pelle. Intanto ditemi come state voi nella vostra pelle, aiutatevi in questo compito osservandola. Infatti la pelle è un punto di osservazione straordinario per verificare lo stato di salute dal punto di vista del benessere psicofisico, e io sono assolutamente certa che gli esperti che ho invitato oggi ci aiuteranno a raccogliere tutti gli indizi. Vi ricordo subito il nostro numero verde 800 24 00 24, potete chiamare sin d'ora perché tutti abbiamo una pelle e tutti cerchiamo di stare bene la nostra pelle. Intanto saluto la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, che tra l'altro per tutto il mese di agosto ci ha insegnato proprio a prenderci cura di questo tessuto magnifico e naturale che ci avvolge e ci protegge. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Una dermatologa per amica. Una dermatologa questo per mi amica. Piace. Sì, amica per la pelle. Allora, dottoressa Serri, ci aiuta un po' a vedere la nostra pelle. Per chi è tornato dalle vacanze, invece per chi in vacanza proprio non c'è andato. Sì, perché molte persone non sono andate in vacanza. Ma va bene anche però così, però magari si sono rilassate un pochettino in queste città rese più vivibili proprio dall'assenza dei più. Allora, la pelle innanzitutto è da capire. Noi dobbiamo capire, amare e assecondare la nostra pelle. Molte persone invece pensano che sia sempre migliorabile, la vogliono distruggere, la vogliono rinnovare, la vogliono spellare, la vogliono grattare, non la capiscono. Ieri visitavo una ragazza bellissima, alta, bella ragazza, che era infelice perché voleva la pelle perfetta, cioè la famosa pelle Photoshop. Ecco, la pelle è un organo vivo che non sarà mai una lamina di plastica assolutamente regolare. La pelle è un organo vivo irregolare che risponde a mille stimoli, che parla, che urla, che certe volte piange, che certe volte ride. Bisogna imparare a capirla e soprattutto ad amarla. Partendo dall'amore per la propria pelle possiamo vedere se è luminosa, possiamo vedere se è ben nutrita, possiamo capire che non sempre, per esempio, la secchezza è legata a mancanza di sebo e che l'eccesso di sebo può essere legato anche a pelle secca, per esempio, pelle che tira, perché la vera idratazione è un'altra, è l'idratazione intraepidermica. E possiamo capire tante cose, quindi anche come trattarla dall'esterno e dall'interno. Quindi dateci qualche indicazione sulla vostra pelle, osservatevela, osservate la pelle del vostro viso, del vostro collo, là dove sembra avere dei cedimenti, degli arrossamenti. Delle lamentele più diffuse tra le donne sono i pori dilatati, molto spesso sono solo pori presenti, ma è normale che i follicoli pilosebacei abbiano un orifizio sulla superficie della pelle. E che cosa fare se ci sono pori dilatati nella zona T, fronte, naso e mento, se la pelle è spenta, opaca, grigiastra oppure luminosa, se la pelle si arrossa al minimo stimolo, se la pelle produce elementi, arrossamenti, desquamazioni, brufoletti, macchioline. Le macchioline in questa stagione vanno molto di moda. D'altronde è la scienza delle macchie, se ci pensiamo, È vero. Noi studiamo i pois. I pois. 800 24 00 24, pois e dintorni, aspettiamo le vostre chiamate nel frattempo. Se è vero che La pelle è lo specchio della salute psicofisica, è altrettanto vero che attraverso la pelle si può recuperare e mantenere quella sensazione di armonia e di equilibrio che ci piace molto e ci fa bene. Quindi impariamo oggi anche a usare la nostra pelle come strumento del nostro benessere. Facciamo un lavoro un po' al contrario. Ci aiuta il professore Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale, che è qui in studio con me insieme alla dottoressa Serri. Voilà, grazie. Ma buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo molto da fare oggi, da lavorare, raccogliendo naturalmente le richieste dei nostri ascoltatori, certo, che ci possono raccontare che cosa, che quale indicazione hanno bisogno da lei in modo che lei dia, no? Certo, indicazioni, certo, sui tocchi, sulle pressioni da fare per spianare un po', non solo sì, le rughe, ma recuperare quella sì, sensazione, infatti, di equilibrio. Anzi, a proposito delle rughe, molte volte vengono vissute come difetti, in realtà sono delle caratteristiche, sono quello che ci differenzia l'uno dall'altro. Tutto ciò che noi vediamo sulla pelle molte volte non è un insulto dall'esterno, ma è invece una non corretta postura, per esempio. Immaginiamo la pelle, perché la pelle lo è, come il vestito che avvolge tutto ciò che abbiamo all'interno, gli organi interni, le ossa, sì, tutto quanto. Avvolto da questo splendido vestito fatto su misura, che sa essere a volte elegante, a volte sportivo, a volte comodo quando siamo in casa, perché è molto elastico, è bello, ci avvolge, ci dà la nostra forma, la nostra caratteristica. Certo. Quindi pensiamo a questo come quando indossiamo una camicia, per esempio. Una camicia appena stirata, messa proprio addosso, che ci va a quella pennello, che dice sembri un biscottino, un figurino. Assolutamente. Non è possibile che rimanga così tutto il giorno, insomma, perché cominciamo a muoverci e quindi comincia a fare delle piccole pieghe e se abbiamo lavorato tanto può anche sudare un pochino. Ecco, quindi quando rivestiamo la pelle con una camicia ci rendiamo conto di che insulti gli possiamo dare. Sicuramente quindi controllare la nostra postura, per esempio, anche adesso quando siamo tornati, per chi le ha fatte, le vacanze e soprattutto per il cambio di stagione, perché il grande stress che è il nostro organismo e che vediamo, penso, anche sulla pelle, penso lo possa confermare anche la professoressa Serri, è proprio dovuto a questo cambio di stagione repentino, sotto ogni punto di vista, anche psicologico. Immaginiamo all'estate, abbiamo vissuto magari con una maglietta, un paio di pantaloncini, un paio di ciabatte, adesso di colpo ci ritroviamo in un ambiente chiuso, pantaloni lunghi, le scarpe, la camicia, la cravatta e il nostro corpo si deve abituare a questa non libertà. E ci troviamo subito stazionati. Certo. Per cui oggi, insieme al professor Di Pietro, diteci anche i punti, osservandovi del vostro corpo, del vostro viso, che vi sembrano già stanchi, e proviamo con degli esercizi molto semplici, naturalmente anche con l'aiuto della dottoressa Serri, a restituire. Io non vogliamo spianare le rughe, assolutamente, ma vogliamo stare bene nella nostra pelle. Intanto io chiedo a voi, come state nella vostra pelle? Siamo al rientro, per molti l'inizio vero e proprio dell'anno, nuove sfide ci attendono, siamo pronti. 800 24 00 24, do subito la parola a Salvatore da Como e a Viviana da Roma. Buongiorno, oggi vorrei avere 1000 telefonate, tutti e ogni poro della pelle ci chiama e ci dice sono qui, sto bene. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Io ho 35 anni. E ho un grosso problema che mi assilla da un decennio, se non di più. Io ho sempre le labbra secche. Ha sempre le labbra secche? Sì, ho sempre le labbra secche tutto l'anno, d'estate un po' meno, d'estate e d'inverno ovviamente un po' di più. E cerco di mantenerle patate, tra virgolette, utilizzando burro cacao. Certo. Però è una cosa che non riesco a spiegarmi. Io tra l'altro perché mi hanno detto vari dottori che le creme cosiddette idratanti non sono quello che si pensa che siano, quindi che aggiungono umidità o acqua alla pelle, perché comunque l'idratazione deve venire dall'interno. Dell'idratazione deve venire dall'interno. Allora, pelle screpolate, il nostro amico Salvatore ha qualche dubbio sui prodotti. Bevo molto io, tra l'altro. E beve molto. Acqua. Esatto, quindi l'idratazione dall'interno c'è, però questa cosa delle labbra mi tormenta. È un tormento, le labbra secche, un po' screpolate, anche perché poi è facile, no, morsicarle un sì, po'. Esatto, bravissima Nicoletta. Ci ho preso. C'hai Salvatore, preso. Lei si mordicchia il labbro? Sì. Oppure bacia chi, molto, Salvatore? Chi, no, purtroppo mordicchio e basta, però. Chi ha le labbra di più, secche? Salvatore, perché secondo me anche quello aiuta, no? Ma chi ha le labbra secche inizia a avere il vezzo di umidificarle, di toccarle, e quindi si innesca un loop, un circolo vizioso per cui sono sempre più secche. Non solo, i cosiddetti classici burri cacao sono a base di petrolato e di siliconi. Ora, i siliconi vanno benissimo perché fanno un film sulla pelle, a parte che non sono biodegradabili, inquinano, eccetera. Ma non idratano davvero. Certo che i dottori dicono non servono quei prodotti, perché non servono quei prodotti lì. Esistono, altresì, idratanti labiali totalmente dermo-eco-compatibili a base di oli vegetali e ingredienti da chimica verde, green chemistry, è la chimica amica della pelle e amica anche dell'ambiente. Quindi Salvatore, quindi, si prodotti ecodermo compatibili messi spesso e cercare soprattutto di non continuare a grattarsi il labbro. Mi raccomando, Salvatore. Perché dalla voce, Salvatore mi sembra un pochino, dall'intonazione della voce, un pochino una persona emotiva, un pochino tesa. Magari mi sbaglio, però mi è sembrato di cogliere una sfumatura di tensione, magari perché parlava con la radio. Certo, ma allora Salvatore, mi raccomando, invece di mordersi le labbra, professor Di Pietro potrebbe ad esempio prendere una pallina di quelle cosiddette antistress. Assolutamente sì. E poi magari un pochino di magnesio marino non gli farebbe male. Questo a nessuno. Questo non fa male a nessuno. E andiamo da Viviana, da Roma, 800 24 00 24, la mia prima amica della giornata. Buongiorno Viviana. Ciao Nicoletta. Eccomi. Ciao, mi senti? Io ti sento bene, Viviana, grazie per averci chiamato. Grazie a voi e a tutti gli ospiti, eccetera. Senti Nicoletta, io dicevo alla tua assistente che sono stupita sì. del fatto che a 50 anni ho la pelle come una rosa. Bella, la pelle come una rosa, i profumi anche di rosa, Viviana. Ascoltami, non so di fare. A 50 anni ho la pelle come una rosa, non ho mai usato, anche in viso, non ho mai usato creme, tipo cera di cupra, queste cose qua, neve, via dicendo, solo acqua di rose, oppure acqua e sapone, però non ho nessun problema di Vedi, pelle. Vedi, Viviana, acqua di rosa ha usato oppure acqua e sapone? Ma come mai a 50 anni? Senti Viviana, non ti lamentare che ci stai facendo veramente venire ci stai facendo rodere il fegato. Anche la dottoressa Serri ha abbozzato, perché se tutti fossero come Viviana la dottoressa Serri va a casa. No, io ne sarei felice, perché per me riuscire a insegnare alle persone a curare e trattare al meglio la propria pelle è veramente meraviglioso. Però vorrei sottolineare due cose. Da un lato siamo talmente sobbissati di notizie catastrofico negative che mi viene in mente una paziente. Un giorno era convinta che io le facessi una certa cosa e le facessi male. Siccome non le ho fatto male, stava quasi svenendo dalla paura. Allora, oggi siamo... E mi ha detto, ma io non sento niente, ma avrò qualche problema? Ecco, oggi siamo quasi stupiti, invece di ringraziare di una fortuna genetica che ha la nostra amica Viviana. Sì, che lei l'ha chiamata fortuna genetica. Io non leggo, Viviana, che cosa hanno scritto gli ascoltatori. Ecco, un nello altro stesso tempo, modo di tradurre. È un po' come andare in un gruppo di persone un po' sovrappeso, che lottano col peso, e dire, ma io sono magrissima e mangio tutto quello che voglio. Ecco, non vale. Non vale, perché Viviana è fortunata, vale. Ma Viviana ci ha detto acqua di rosa. Ma è vero che, ad esempio, è molto utile dopo essersi lavato il viso con l'acqua e sapone. Passarsi un batuffolo con dell'acqua minerale. Certamente, piuttosto... perché molto spesso l'acqua di rubinetto, soprattutto nelle città, è ricca di calcare. Quindi, onde togliere l'eccesso di calcare dell'acqua del rubinetto, si può passare dell'acqua minerale. Vedi, quindi Viviana la sapeva questa? Sì. Vedi? Sì, la sapevo. Mi manda... Viviana, mandaci una foto con la tua pelle di rosa. Facci sognare. L'ultima cosa, Nicoletta, sì. È dottoressa Ferri. Da quando sono in menopausa, io non ho, chiedo scusa ai signori uomini in ascolto, un pelo sulle gambe, un pelo. Dai, anche quello. Sono due anni che... Anche risparmia quello, in ceretta. Risparmia in ceretta. Viviana, lei, tu sei la prova che dai 50 in su la vita può essere straordinariamente fantastica. Un abbraccio a Viviana, andiamo a Fabrizio che ci chiama da Roma, 800 24 00 24, un altro poro della nostra pelle che ci chiama per stare bene nella pelle. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa riguardo la rasatura. Io ho il problema, diciamo, che devo rasarmi in testa quasi tutti i giorni, un giorno sì e un giorno no. Ho una pelle che reagisce molto a tutto e mi capita purtroppo che si formino delle piccole irritazioni come dei brufolini, sì, tra virgolette, che in testa sono veramente antiestetici. Sto provando dei gel che non sono saponi per la rasatura, ma dei gel a base di erbe per evitare si è orientato sulle erbe, ma la rasatura le dà sempre qualche problema. Sì, comunque ogni tanto tendo un pochino io, una volta che sento qualche cosa, a voler eliminare, e quindi poi tocco e faccio peggio. E comunque al di là di quello si formano spontaneamente, quindi volevo sapere se magari posso intervenire mangiando cose differenti o no. Può esserci qualcosa che possa agire dall'interno, anche non solo dall'esterno. Certo, queste follicoliti e pseudofollicoliti post barba vengono anche spesso in testa, laddove c'è il follicolo pilifero che viene tolto con l'atto della rasatura. Vengono molto frequentemente perché la pelle si infiamma, il follicolo pilosebaceo si infiamma. Onde non infiammarlo, è bene fare le cose con la massima calma e relax dopo aver ammorbidito la parte. Quindi è molto importante prima magari passare dell'acqua calda, fare una doccia calda che ammorbidisce la parte, e poi radersi con la massima calma. Invece molto spesso gli uomini oggi, come tutti noi del resto, tendono ad avere fretta, a fare sgrac, a fare troppo in fretta, e quindi tendono a infiammare la pelle. La pelle infiammata innesca un circolo vizioso tale per cui poi uno si tocca, si gratta in testa, infiamma sempre di più la testa, per cui bisogna calmare la pelle innanzitutto con prodotti come il gel d'aloe eccetera, e fare la rasatura a umido, quindi col rasoio manuale, ma con la massima calma, come facevano i barbieri un tempo. 800 24 00 24. Rugosa, rugosa piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice. Buongiorno, signora. Ha un aspetto meraviglioso stamane. Ehi, un momento. Non stai dimenticando qualcosa? Beh, oggi è solo giovedì. Lei lascia mi deve dirle che... Io ho bisogno di sentirtelo dire tutte le mattine. Molto bene. Oh, madame, lei sembra più giovane ogni mattina. Grazie, Rosa. Ti sono veramente grata. Dio, è incredibile. Guarda che freschezza. Ma quanti anni ha? 50. 50? Ci sta prendendo in giro. Darei chissà che per sapere qual è il suo segreto. Il segreto, potremmo dire il segreto di Viviana. Insomma, oggi proviamo a vedere le rughe sotto un'altra luce, anche perché poi il professore Di Pietro ci aiuterà, certo, a spianarle un po'. Sì. Però le rughe, a cui noi dedichiamo sempre molta attenzione, le guardiamo sempre molto preoccupate, raccontano un sacco di cose, no? Ci sono anche delle rughe che se non ci fossero, bisognerebbe quasi inventarle. Volete mettere il fascino di una ruga? Le rughe in faccia sono le cicatrici del riso, delle lacrime, delle domande, degli stupori e delle certezze. Simone Signoret. Allora, proviamo a vederle così le nostre rughe. Ci aiuta la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica IEO. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. E bentornata. 800 24 00 24. Vogliamo anche vedere sotto un'altra luce le nostre rughe, orizzontali, verticali, a ventaglio, da gallina, del pensatore. Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Dottoressa Luini, partiamo dalle rughe della fronte. Ci aiuti a vederle in un altro modo? Sì, due rughe parallele in verticale in mezzo alla fronte sono definite le rughe del pensiero. Sono quelle che partono sopra le sopracciglia e di solito indicano appunto un carattere un po' pensieroso, forse qualche volta irascibile. Se la ruga è una sola, ricordo in verticale, centrale nel volto, allora quella è la ruga del comando, che io assolutamente non ho. Però ho le zampe di gallina. Ah, questo è magnifico, è almeno una. È una buona notizia, perché vuol dire che sorrido o rido spesso e quindi forse sono un po' simpatica, no? Si dice sempre, quando una magari non è bellissima, però è simpatica. E quindi ho le zampe di gallina. Le rughe dell'insicurezza e dell'indecisione sono quei tanti segni sottili che attraversano la fronte in orizzontale. Invece la ruga in verticale sul volto, che parte dal naso e va alle labbra, è il segnale dell'intuito e indica perspicacia e intelligenza. Quindi questa ruga, se uno non ce l'ha, dovrebbe farsela venire. Sì, infatti stavo pensando, probabilmente un intervento di chirurgia plastica può rendere il volto perspicace e intelligente, perché però, questa deve essere una bella ruga. Però dottoressa, il professor Di Pietro come le rughe le previene, le rughe le potrebbe far venire anche. Le rughe se... l'avrei chiesto. Vero? Sì. Andiamo sulle anche le guance possono essere un po' rugose o perlomeno coprirsi di quelle rughette un po' che sembrano il mare increspato. Sì, vedi sì, come sono quelle, esatto, bellissimo, una visione poetica al massimo e queste rughe in verticale indicano sensibilità e però la necessità di stare sempre sulla difensiva. Sappiamo che chi è ipersensibile tende un po' poi a imparare a difendersi, no? E poi c'è la ruga che attraversa la guancia dall'orecchio verso le labbra. E questa è una ruga che indica fierezza e di solito una tendenza a ribellarsi alle regole. Quindi le rughe del volto secondo me sono molto interessanti. Quindi perché... noi insieme, anzi chiederò a Miriam Lucchetti che è in regia, se riportiamo anche questo specifico, questo dettaglio dell'intervista della dottoressa Luini oggi, lo riascoltiamo. Sapete che vi dico sempre per favore di scaricarmi, voi dovete scaricarmi sempre, ve la riascoltate, guardatevi allo specchio con questa indicazione, vedrete che farete amicizia con le vostre rughe. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi, buona ruga. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Professor Di Pietro, adesso veniamo da certo. Lei, ci comunque, spianiamo. È una bellissima lettura questa che è stata fatta, anche perché è una questione secondo me poi di comunicare, comunicare alle persone che le rughe non sono una cosa negativa. Anzi, è stato bellissimo ciò che ha detto la dottoressa Luini, perché ci ha fatto vedere le rughe come riesco a far vedere qualcosa di me. Non sempre mi devo nascondere per forza. A volte volerle cancellare vuol dire cercare di raggiungere la cosiddetta bellezza standard, che è una cosa proprio da giornale, patinata, è una cosa non reale e ci rende un po' falsini. Ecco invece, chi invece non ha questo tipo di problema, le sue rughe comincia ad accettarle e a capire che vanno sì tenute, non fatte rese più profonde, infatti vediamo qualche esercizio magari certo. Su questo, ma vanno accettate per quello che sono, cioè sono una parte di noi stessi che fa vedere agli altri chi siamo, è un po' la nostra carta d'identità. Allora è importante che voi mi chiamiate subito all'800 24 00 24 per suggerirci il punto che volete, su cui volete lavorare. Zampe da gallina, le rughe che magari vi danno quell'espressione un po' pendula, il collo, anche certo, il collo. Ma certo, dovunque abbiamo rughe, anzi cominciamo a non chiamarle più zampe da gallina. Bravo, cominciamo a chiamarle rughe della sorriso, felicità. Della felicità. Gabriella da Roma. Se posso solo dire una piccola cosa, le rughe di chi prende troppo sole, di quelle visi a prugna secca non hanno niente di bello. Chiusa la parentesi e andiamo avanti. Basta, noi siamo qua bianchi e mollicci, ma felici. Gabriella da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Le grazie rughe della felicità ce le ha o no? Io ce le ho. Ah, magnifico, se no dovevamo fargliele venire noi. Non sono una bimba, ho 57 anni, però sono contenta delle mie rughe, anche se qualcuno dice, ma così ti invecchiano un po', va bene così, perché mi accetto e voglio invecchiare tranquilla. Guardi che piacciamo anche con un po' di rughette. Infatti, io non devo piacere per forza tutti. No, ecco. Assolutamente. Gabriella. No, è anche molto divertente quello che stavo ascoltando, perché in effetti andare dietro le rughe è divertente, perché anche quando una persona non la conosci, attraverso il suo volto riesci già a capire alcune cosette. Sì, se è una persona sorridente, musona. Sì, se, esatto, quindi ti aiuta anche ad approcciarti in un certo modo piuttosto che in un altro. Gabriella, lei ci ha chiamato per un motivo particolare o sì, solo io per... Io ho telefonato per un motivo, che ogni tanto mi capita, una cosa che mi capita e mi dà un po' di... così, tensione, sì. Perché nei cambi di stagione in modo particolare noto che dopo cena ho un prurito in tutto il corpo, ma sì. Un prurito... quella che si dice la grattarola, Gabriella? Sì, esatto. Grattarola. Per non darmi tregua. No, fastidiosissimo, perché più prude, più uno certo. Si gratta, più viene da grattare. Anche in questo caso una versione differente del prurito, per non la chiedo alla dottoressa Serri come dermatologa, ma al professor Di Pietro. La mia visione del prurito. Voilà. Dopo pranzo e dopo cena in alcune zone. Allora, bisognerebbe chiedere alla paziente in questo caso se ha anche qualche problema di gonfiore dopo cena. Perché cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che il prurito è questo non corretto arrivo attraverso le nostre terminazioni nervose dello stimolo fino ad arrivare alla cute. Mm. Se è questo, potrebbe esserci qualche problema magari di artrosi sulla colonna vertebrale, in particolare nella zona cervicale. Se avviene questo, le compressioni che si hanno, anche perché magari tutto il sangue comincia ad arrivare per la nostra digestione verso lo stomaco, sì. Fanno sì che la zona della cervicale in alcuni momenti dell'anno, come quello che sta arrivando con sì. L'autunno, quando c'è il cambio di stagione, possano dare queste microcompressioni e quindi danno questo prurito diffuso, perché si trasmettono attraverso le terminazioni nervose. Sono quindi un segnale di andare a valutare come sta davvero la nostra cervicale. Sarebbe bello sapere se ha dei problemi alla zona cervicale. Quindi alla nostra... a Gabriella, la lettura alternativa al una spiegazione puramente dermatologica è attenzione, potrebbe essere anche la cervicale. Potrebbe. La cervicale ci aiuta anche per nella posizione sì. Del collo e quindi delle rughe. Assolutamente sì. Possiamo anzi. Dare il primo esercizio prima di passare a Gianni da Milano? Il primo esercizio lo facciamo appunto per la cervicale. Mettiamo le mani con le dita incrociate dietro la nostra nuca. Sì. Con le ci braccia siamo. Più aperte possibili. Voilà. E cominciamo a spingere la nuca verso l'alto e guardiamo verso il soffitto. Poi ci giriamo verso destra, verso sinistra, tre volte a destra, tre volte a sinistra, e già questo, fatto un paio di volte al giorno, vedrete che ci solleva la cervicale, fa arrivare un po' più... Perché ride? La sto facendo male? Io sto male. Ridando perché vedo che lo state facendo benissimo. Non sia Pinocchio, perché mi sembra che la dottoressa Serri lo stia facendo male invece, mi sembra di essere più brava. e arriverà più sangue verso il cranio e sicuramente i muscoli inizieranno a rilassarsi e quando siamo rilassati avremo soltanto l'accenno delle rughe più belle del mondo e basta. Questo mi piace. Gianni da Milano, lei poteva farlo l'esercizio? In che senso? Buongiorno Nicoletta, innanzitutto grazie dell'ospitalità. Grazie a lei Gianni di venire, perché se venite a trovarmi e se mi chiamate io sono felice. Gianni però mi scarichi anche. Gianni, volevo chiedere se ha fatto l'esercizio quello con le mani per le rughe, la cervicale. No. Però no, può riascoltare. No, ero in attesa di essere messo in Va bene, allora per chi sta ingannando l'attesa, seguite anche gli esercizi del professor Di Pietro. Gianni, tocca a lei, mi racconti tutto. Allora, il mio problema è questo, come dicevo appunto alla sì. Signorina. Io ho tendenzialmente le mani sempre umide o sudate, come preferite. Ecco, Asciugano solo quando cambia il tempo, quando inizia. Cioè, quindi senta Gianni, prego, lei sfrutti questa sua particolare caratteristica, perché è senza, ha già una visaglia del tempo che cambia. Ma ecco, quando piove le mani si asciugano, diventano, ecco, quindi secche. Lei quando inizia a piovere cambia il tempo, sua moglie si accorge che lei ha le mani non più sudate. Ma professor Di Pietro, anche in questo caso un'altra lettura. Ma povera cervicale, adesso dobbiamo ancora tirarla in ballo. Potrebbe sicuramente essere ancora un problema di compressioni sulle vertebre cervicali, in questo caso direi intorno alla settima vertebra cervicale. Alcune volte capita questo, e quando cambia il tempo, noi fondamentalmente siamo fatti d'acqua. Il contenuto d'acqua che c'è però nell'osso non è il contenuto d'acqua che c'è nei muscoli, soprattutto nella cartilagine. Quando abbiamo quindi un cambiamento di pressione, guarda caso col cambio della pressione sia poi il cambio del tempo, abbiamo una compressione intorno alle vertebre di microscopica, ma sufficiente per alterare il segnale elettrico che poi arriva alle mani, e a volte si risolvono questi casi proprio lavorando sulla cervicale. Quindi è sempre lei imputata per il benedetta nostro... Benedetta cervicale. 800 24 00 24. Adesso che proviamo a stare bene la nostra pelle, io direi che possiamo anche pensare di profumarla un po', prendercene cura, nutrirla e profumarla, scegliendo magari l'essenza, la fragranza giusta per il momento giusto, quella che amplifica, racconta anche i nostri stati emotivi, oppure quella che proprio annusandolo ci fa magari tornare un po' di serenità. Per noi donne, seconda solo alla ricerca dell'uomo perfetto, è la ricerca della fragranza perfetta. Che ne dite di melagrana e patchouli? No, ti serve qualcosa di classico, fresco. Con una lieve fragranza di nevrosi. E tu invece sei riuscita a trovare qualcosa? Non ancora, sto cercando di capire a Steve quale può piacere. Prendigli dell'Old Spice e falla finita. Steve non usa l'Old Spice, non usa niente, e il suo odore mi piace. E voi che profumo avete? Quale profumo state indossando? Lo sentite in linea con noi? Proviamo a sentire i consigli di Luli Gaidano, che è responsabile corsi di formazione Bara Parfum. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Intanto mi tolgo una curiosità. È vero che quando ci diamo del profumo e poi non lo sentiamo più, vuol dire che è il profumo che fa per noi? È vero, perché comunque è un profumo che ormai si è amalgamato con noi. Il problema è che qualcuno invece vuole continuare a sentirselo, quindi significa che è il momento di cambiare. Quindi se non lo avvertiamo più, se vogliamo muoverci e sentire quelle note che ci accarezzano, bisogna cambiare profumo, e lì la scelta può diventare difficile, soprattutto se siamo abituate alla stessa fragranza da anni. Certamente, ma la cosa migliore sarebbe anche quella di strafittificare il profumo, quindi indossare una crema profumata, un olio profumato, per poi indossare il profumo direttamente sull'abito, in modo tale da poter sentire di più la fragranza, quindi quella che comunque ci piaceva e che non riusciamo più a percepire. Quindi non come si sente dire spesso sul profumo sui polsi o dietro ai lobi? Quello si può anche fare, per esempio, mettendo magari il profumo solido in quei punti più caldi, ma io consiglio di vaporizzare il profumo sull'abito in modo tale da sentirselo di più muovendosi, e chiaramente la pelle va profumata con le creme o con gli oli, come dicevo. Anche perché ci sono delle essenze che si indossano e che aiutano anche a tirare fuori la nostra personalità. Ci sono delle essenze che noi possiamo indossare in determinate occasioni. Penso ad esempio quando affrontiamo un colloquio di lavoro, una cena romantica, quando abbiamo un momento di tenerezza con i nostri bambini. Sì. Infatti il profumo è un po' come un abito, quindi in base alle occasioni, se vado a una cena di lavoro avrò magari un tailleur o comunque un abito elegante, se vado a cena con amici posso anche permettermi un paio di jeans, per esempio. E quindi è importantissimo scegliere il profumo giusto per ogni singola occasione. Un esempio, devo andare a un incontro di lavoro? Ebbene, indossare una fragranza magari con delle note più boisé, delle note più legnose, che comunque conferiscono anche a chi ci sta vicino fermezza, più... Certo, la vaniglia o il cocco lo lascerei ad un incontro di lavoro di altro genere. Esattamente. Esattamente, la valigia magari per il burlesque, ad esempio. Bravissimo. L'incontro di lavoro di burlesque indosso la vaniglia è il giusto ingrediente. Mentre invece per un appunto un incontro magari se voglio fare le coccole, quindi sono una mamma e faccio le coccole, posso indossare una fragranza più gourmand, quindi le note più gustose. Se sono ad una serata due, sicuramente note fiorite tipo gelsomino o la tuberosa, vaniglia, che rimane molto seducente. Allora, signora Gaidano, io la saluto per essere stata con noi, la ringrazio. Noi ci ha fatto grazie sentire un po' di profumo, grazie. E ricordiamoci, allora stratifichiamo il nostro profumo, ma stiamo tranquilli. Se non avvertiamo il nostro profumo, vuol dire che forse è quello giusto per noi. Negli giorni scorsi avrete letto sicuramente una notizia che arriva dalla ricerca e che oggi vorrei commentare col professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, dalla pelle sembra che ci sia la possibilità di ottenere spermatozoi. È una notizia che ha acceso la speranza di uomini infertili per problemi proprio per patologie. C'è da crederci o no? Ma dalla pelle si può ottenere tutto, queste cellule della pelle modificate con certi geni possono diventare qualunque altra cellula, perlomeno in laboratorio, e quindi anche in teoria spermatozoi. Da qui a utilizzare le cellule della pelle per la fertilità passeranno ancora molti anni. La strada è quella giusta, è interessante, per adesso serve di più per capire come si formano gli spermatozoi, come si formano queste cellule straordinarie che poi danno origine a un uomo o a una donna, piuttosto che davvero per risolvere il problema della sterilità, che gli ostacoli sono ancora enormi. Certo, la strada è stata segnata e la ricerca ci sorprende tutti i giorni, ci sorprenderà ancora anche in questo senso. Questo ci piace e vi rimando sempre alla pagina di Essere Benessere, dove la ricerca che ci aiuta a vivere meglio con le ricerche, le più prestigiose ricerche commentate dal professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, grazie, noi ci sentiamo prestissimo. Grazie, grazie. Buona giornata, buona giornata. Grazie. Allora, noi abbiamo ancora Stefano da Milano, 800 24 00 24, ce la facciamo? Stefano, buongiorno, rapido. Buongiorno, buongiorno, rapidissimo. Io frequento abbastanza spesso sauna e bagni turchi, volevo capire gli effetti che questi hanno sulla pelle ed eventuali trattamenti dopo questi tipi di sedute. Ci piacciono per il nostro vestito pelle, dottoressa Serri, le saune e i bagni turchi? Se l'organismo le sopporta vanno molto bene, certo devono essere fatti in un ambiente igienico, perché noi sappiamo che il bagno turco è umido, la sauna è secca e nell'umidità crescono molto i batteri, per cui bisogna scegliere delle location estremamente rigorose dal punto di vista igienico-sanitario. Certamente se l'organismo lo sopporta va bene, che cosa fare dopo? Pulirsi, lavarsi bene, una bella doccia ed eventualmente, se la pelle è secca, applicare un idratante, ovviamente esente da petrolchimica. No petrolati. Invece noi chiudiamo, la lascio con un minuto e mezzo di ginnastica e per le nostre rughe dei tocchi magici. Sì, assolutamente. Professore. Sì. Allora, una cosa importantissima per le nostre rughe è quella di idratare il più possibile dall'interno. Abbiamo visto come facendo arrivare più sangue possibile, quindi il massaggio va benissimo. Bisogna capire la ruga, non sulla ruga direttamente, sì, ma di fianco alla ruga, sì, perché dove c'è la ruga solitamente sono dove si incrociano alcuni muscoli che iniziano a non essere utilizzati tanto bene e quindi è molto importante, sì, a questo punto massaggiare il più possibile, al di là di usare creme di ottima qualità, ma fare arrivare più sangue possibile alla zona che vogliamo trattare. Quindi non sulla ruga, ma di lato. Attorno alla ruga. State intorno, come sta facendo adesso la dottoressa Serri. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio naturalmente i miei ospiti, gli esperti, voi che siete intervenuti, Miriam Lucchetti in redazione, Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, potete raggiungerci via mail, dovete scaricarci e soprattutto pensatemi e tornate a trovarci domani. Buonissima giornata da Nicoletta.